ministri, accelerate l'apparato e la pompa, indi se lieto esultino i vassalli, e più giureva del suo signor, senta la reggia i voti. E legge del mio re che io stessa fronte, e renda più superba delle tragedie mie, la scena cerva,